can be against us. If Jah is for my people, I don't know who can try, who can try to be my enemy. My Africa want to be free. Eccoci qui per questo sabato 12 ottobre, Radio Africa. Mama Africa, Africa want to be free. Oh Africa, Africa, Africa want to be free. Sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. As I know your system is a block against my people. 06 49 17 50 il contatto telefonico. If Jah is for my people, I don't know who can try, who can try to be my enemy. My Africa wants to be free. Africa, Africa, Africa wants to be free. Radio Africa, sonorità dal continente africano fino alle 18. Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi se volete ancora ascoltare questa radio libera nell'etere romano e laziale, il conto corrente postale è il 6180 4001, intestato a Cooperativa Laboratorio 2001, Via Le Voci 56, Roma. Cominciamo con le nostre selezioni per questo sabato e cominciamo con un bel viaggio attraverso la musica etiope, e il primo nome che ci viene in mente è quello di Mulatu Astatke, classe 1943, un musicista che ha suonato addirittura con Duke Ellington. Da un suo album con il gruppo Heliocentrix ci ascoltiamo questo Cha Cha Cha. Thank you. Ouastat, che è un vero e proprio monumento della musica etiope. Lui a 16 anni se ne andò in Galles a studiare musica, poi andò a New York, ha incontrato anche Coltrane ed è sicuramente uno, insomma, degli esponenti più significativi di quello che viene definito più o meno a ragione etio jazz. Ha fatto anche la colonna sonora del film Broken Flowers di Jim Jarmusch. Ebbene, Mulatu Astat, che è la nostra porta d'ingresso per la musica etiope, ma ci sono tanti altri artisti, come per esempio Getachew Mekuria. Lui ha quasi 70 anni, è un sax tenore. L'hanno incontrato un gruppo punk che è olandese, gli X, e ascoltiamo quello che ne è uscito fuori. Kawi Silt, lui è Getachew Mekuria insieme al gruppo olandese gli X, che lo hanno ascoltato in un album che lo ha reso che lo ha reso famoso, Negus of Ethiopian Sax, e lo hanno invitato a suonare ad Amsterdam per il loro 25esimo anniversario, e questa, insomma, questo connubio ha dato luogo a questa splendido pezzo. Mercuria ha cominciato classe 1935, quindi parliamo insomma di persone più che mature. Ha cominciato suonando il krar e il masenko, che sono strumenti tradizionali etiopi, per poi passare al sassofono e al clarinetto, ed è stato, ha fatto parte delle band del teatro Haile Selassie e dell'orchestra della polizia, perché appunto in Etiopia le orchestre più importanti erano orchestre di enti pubblici, come appunto il teatro di Addis Abeba o la polizia, quello della polizia, e lì si sono fatti le ossa gran parte dei musicisti che poi hanno continuato a suonare per conto loro, oppure sono andati via dopo il colpo di stato del Derg. E la diaspora etiope ha dato un grandissimo aiuto allo sviluppo appunto della musica etiope, come il caso del progetto Bole to Harlem, che abbiamo già conosciuto qui dai microfoni di Radio Africa. Bole to Harlem sono un gruppo di musicisti afroamericani insieme a appunto esponenti della diaspora etiope, che hanno incrociato, diciamo così, le loro esperienze musicali. Il brano che ci ascoltiamo è Ahmet Ballé. Yo, this is Bole to Harlem crew with brand new song from New York City, Harlem to Addis Ababa, Ethiopia. It's time to celebrate, yo. زمت تسف سو ساک ناجات سلام تانیا کربال هلوم به فجعت بامت بال انت جنت تلن بامت بال کرتن بالالن برای می تردال بگن نامو کتو یال ناتیال آباد ایدر تلن بیتو یک تلف سیو تگابی نان تلا ناسترک آلن گوره بیت سیتلا سینیو می در در بناو می فلا انتالم می چا چاشی تا بیتو یوملا از ماری ترا کبروی متا Get ስሱብ ላውጣ ሽቶዬን ልቀባ ሄጄ ለመጨፈር ጋስላይት ልገባ ያጎቴ ማርቼዲስ ሰው ሽሄዳል ላልታየ እስክስታ ተዘጋጅቻለሁ መድረክ ላይ ወጥቼ ባዲሱን እስክስታ አለ ምን ላሳይሽ አንዴ ልውረዳል ቆንጆች ተሰብስበው አይን አይኔን ቢያዩኝ ዲጄ ሙዚቃውን ሲጨፍርልኝ በሚገለው አይኗ ጠቀጠሰችኝ ወደ ላይ ወደ ታች ቦረገረግባት እሷም ገጠመችኝ በጣም በመደስ ምን አለ ይሄ ቀን ቶሎ ባያልቅብኝ ከሷ ጋር አድሬ ለሊት ባይነጋብኝ ከሷ ጋር አድሬ ለሊት ባይነጋብኝ Hamat Ballet, progetto di Mushrooms, questo Bole to Harlem, dove Bole è la porta di ingresso per Addis Abeba e Harlem, appunto, la conoscete tutti. 16:51, Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Vi ricordo il contatto telefonico 06 49 17 50. E un altro gruppo etiope, i Dub Colossus, sono una band che si è formata da Addis Abeba ma che ha anche connessioni con la Gran Bretagna e il loro suono fondono la tradizionale musica asmari e con il dub e con il reggae, creazioni di Nick Page, detto anche Dubula. E allora i Dub Colossus in questo brano Gura Ghigna. Dub Colossus, loro dall'Etiopia. E allora sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico. Questa è Radio Africa, stiamo facendo un percorso attraverso la musica etiope. Alemayo Eshete è uno sicuramente dei musicisti più prolifici della scena etiope. Anche lui aveva cominciato negli anni 60 con l'orchestra della Polizia di Stato, ma è stato uno dei primi a uscire fuori da queste istituzioni e cominciare a suonare in maniera un po' avanguardistica per conto proprio. Era definito il James Brown etiope, e allora ce lo ascoltiamo. Eshte. Ancora mulato a Statke. ancora appunto Mulatu Astat, che insieme agli Elio Centrix in questo Mulatu. 17.03 Radio Africa, sintonizzate e sintonizzare sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Vi ricordo il contatto telefonico 06 49 17 50 e se volete scrivere a Radio Africa, radioafrica@ondarossa.info. E allora continuiamo questo percorso attraverso le sonorità dell'Etiopia. Etiopia, questo è uno dei paesi più vecchi dell'Africa ed è sempre stato un paese indipendente, è stato il primo ad avere una struttura statale, ha subito l'invasione degli italiani durante il periodo fascista nel 1936. Adesso si trova in una condizione estremamente complicata, come è complicato tutto il quadro del Corno d'Africa con la disintegrazione della Somalia. E l'attività musicale ad Addis Abeba era molto esplosiva negli anni 60, tant'è che si parlava della Swinging Addis. C'erano gruppi musicali appunto che suonavano influenzati dal jazz, ma anche dagli stili tradizionali. I locali erano pieni, c'era una certa vivacità. Poi c'è stato il colpo di stato nel 1975 del Derg, in seguito poi la guerra civile, quindi diciamo che il colpo di stato ha dato una sterzata a questa attività musicale, fermento anche culturale, e quindi molti artisti sono stati mandati via, sono andati in esilio, alcuni sono finiti appunto come Mulatu Astat che a suonare negli Stati Uniti, altri in Inghilterra. La diaspora etiope si è rimpolpata. Ci sono ancora artisti che comunque suonavano in quel periodo e che sono stati riscoperti anche dal grande lavoro di Francis Falsetto, che ha costruito questa serie di dischi etiopic che hanno fatto conoscere appunto al pubblico occidentale, a tutto il mondo, questo grande panorama, questo grande patrimonio musicale. Proprio da Etiopic che noi ci prendiamo questo brano di Bessele e la sua Dullal Band, e allora ve la faccio ascoltare. And E Melesse appartiene a quel novero di musicisti che hanno cominciato a suonare appunto negli anni 60, ha cominciato addirittura a 13 anni, molto precoce, e anche lui è passato attraverso questa istituzione che era l'Orchestra della Polizia Nazionale, per poi andare a suonare nei nightclub e quindi fare un percorso appunto di sperimentazione, dopodiché se n'è andato negli Stati Uniti e dove appunto è rimasto a suonare fino agli anni 80. E ci sono questa scena musicale, appunto, vi dicevo, si è interrotta nel periodo del colpo di Stato del governo militare dal 1975 fino al 1991, e poi successivamente molti musicisti, soprattutto le nuove generazioni, hanno ricominciato a ascoltare questa vecchia musica che ascoltavano i loro genitori. Ma non solo, l'ha cominciato a combinarla con i ritmi della dance, con i beat, con la musica dei sintetizzatori, ridando vita a dei ritmi come il gurage, il vollo, il gondar, il conso, che si erano ormai persi, e soprattutto nei ristoranti, nei caffè, nella zona per esempio del mercato ad Addis Abeba, molti giovani appunto hanno ricominciato a riassaporare questa musica. Un album che insomma fa il paio con questi di Ethiopic, un album che si chiama Ilita, di una casa etichetta discografica olandese. Insomma, questi olandesi sono molto attenti, insomma, alla scena etiope, e ci ha dato un'idea, insomma, di come questa new wave, diciamo così, etiope. E allora ci ascoltiamo Tirundel Zenebe, il brano è Gue. Tirundelle, Zenebe, in questo Gue, la nuova dance music etiope. Trascinante e ipnotica. Loro sono gli Invisible System. Dan Harper originalmente aveva viaggiato in Etiopia per lavoro, aveva incontrato i musicisti, li aveva portati a Londra, da qui sono nati sia i Dub Colossus che questo progetto Invisible System. Sono sempre i Bullet to Harlem in questo brano En Saralen Goyo. Si sono fatte le 17:23, sempre all'ascolto di Radio Africa dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico. Viaggio attraverso la scena musicale etiope, e allora ci sono anche dei giovani che stanno riproponendo un po' i classici della musica etiope. Questo è il caso di Samuel Irga. Samuel Irga, che suona a New York insieme a Kenny Dope Gonzalez, a Little Luis Vega, conosciuti come i Master at Work. E allora lui è un pianista e ce lo ascoltiamo in questo brano. Samuel Irga insieme a Little Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez dei Master at Work. Allora, la scena musicale etiope, come avete potuto sentire, insomma, se avete ascoltato fino adesso la trasmissione, è estremamente variegata. Ci sono delle tendenze nuove che si mescolano appunto con sonorità contemporanee, ma anche una solidissima tradizione. Ritorniamo ai Dub Colossus, l'Invisible System, che in fin dei conti è anche una costola dei Dub Colossus. Ebbene, loro poi hanno delle sono molto sensibili al ritmo in levare, al dub, ma d'altra parte, come dire, il reggae e l'Etiopia, insomma, ci hanno una loro profonda, inscindibile connessione. E allora gli Invisible System ce li ascoltiamo in questo brano che appunto ha delle sonorità in levare. عيب عمرنا وببدلي تساقط መውደዱ ናና ንቅ ኮቹን ሳይን ዋዛ ba-ba-ba-ba chanak-chanak ilal darso vendao hode ba-ba-ba-ba chanak-chanak isu kalpaf karo mele Symbol System, in questo Ode Baba, si sono fatte le 17.34 dai microfoni di Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza, questa è Radio Africa. E allora dalla scena etiope ce ne andiamo a un altro mescolatore di suoni che si chiama Bodhisattva. Lui è nato nella Repubblica Centroafricana, aveva messo su una crew che faceva hip hop, la Gekpa Crew. Dopodiché se n'è andato in Belgio a proseguire i suoi studi e lì ha incrociato le sonorità di Masterwork, Onsullade, Alton Miller, e ha insomma rielaborato le sue origini africane dal suo album Invocation. Questo brano insieme a Mo e Yuba è Jazz Sanctuary. Zion, Habenda say, oh, Habenda, yeah, yeah, ah, oh, oh, Zion. See me, I say my mic on the microphone, yo. Willy Kafendo, Echo Sunny, Chicago. Willy Kafendo, Echo Sunny, Chicago. Africa, Dambe, Africa, Dambe. Zion, Rastafari, Badia style. Jolly man, na tonga nga ta Zion. Rastafari, when the peace in on a honor turn them rad. Written in nimble, you have to run them rad. Chimney print them, we could never fight. We needed his wife. Yo, politician, kako, kana sema, no ta fe. Ukana nga jama na mine, hiko sayang. Italian call Willy Lako for a Jordan. Blanyanga tanyanga for a Togo Sayan. Blanyanga fire upon them, go for Babylon. Black revolution, black mania, Pentagon. Rastafari, Nikas, Mitch and Wilson. Rastafari, full. Missing again, Padeya style. Ambi Dali Manatuga Ngata Zion. Rastafari. Badia style ambida liman na tonga ngata Zion. Rastafari. Badia style ambida liman na tonga ngata Zion. Rastafari. Badia style ambida liman na tonga ngata Zion. Rastafari. Rastafari and them Philistine. Blessing on them like you want them love it time. Ticking, to massacre place. Ticking, Nelson Mandela place. Ticking, Patrice Lumumba place. Jablinson, African freedom fighter. Chocken. Badia style ambidali manatuga ngata Zion. Rastafari. Badia style ambidali manatuga ngata Zion. Rastafari. S, une faute ni wuli la ka den sol fire bon ambitam dinga tunganga den sol yaba a fo flame for beka wuli ka single. Rastafari full. Missing again. Blaise Thomas Sankara, Blaise Patrice Lumumba, Blaise Nelson Mandela, Blaise Kwame Nkrumah. African freedom fighting. Jobless, my people. Jobless, Zion Tijan. Jobless, Africa. Yeah, man. All right, you must know my gun, sir. Wait, them not people, boy. Actually, one repeat your name now. With a minute, it's some new waiter. Love green man, fun later. One and them, what's it, three man, Russia. Well, me, what a name. One free on them, series and Babylon, me, Captain Nature. Good fire. Body, a style, and be Dali Manatunga, and dance on Rastafari. Body, a style, and be Dali Manatunga, and dance. Satva, Bodhisattva in questo brano già Sanctuary. E allora 17:40, sempre all'ascolto di Radio Africa, dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. E vi ricordo anche il contatto telefonico 06 49 17 50. E con questo brano invertiamo rotta, allora ce ne andiamo in Senegal. Lui è Didier Awadi con il suo President Freak, un brano roots come quello che ci siamo ascoltati, che è un brano che era dedicato ai combattenti d'Africa, Sankara, Lumumba. Allora invece con questo brano roots di Didier Awadi, che appunto racconta delle sue radici nere. You can't hate the roots of a tree and not hate the tree. You can't hate your origin and not end up hating yourself. You can't hate Africa and not hate yourself. comme ce footballeur sur le terrain, sa coupe blonde. J'ai vu les sœurs changer de peau, du noir au bire au jaune avec des taches sur la peau. Le truc est sale, en plus ça pue. C'est comme Michael, à moins que ça tu trouves ça beau. C'est ta nature, vilaine caricature. Le ridicule ne t'atteint plus, il en devient seconde nature. Papa c'est pas beau, tu sais pas mais c'est pas beau. Tu suis comme tout le monde dans le troupeau, pourtant c'est pas beau. Nikunu lingada, ma tu lingada. Clair, complexé mes frères. Tu le sais, tu le sais, je le sais, mais moi je vais pas le taire. Ce négro, mon pif est gros. Tu ne m'appelles pas négro, nigga, pour moi c'est trop. Il y a 400 ans, puis 50 ans, ça fait 450 ans qu'on nous viole, qu'on nous pourrit le temps. Mon attitude, ma négritude, comme un félin blessé, moi je bondis sur ma tigritude. Mon animisme, mon athéisme, mon panafricanisme, je m'en bats contre l'antigamitisme. Quelle belle mine, ma mélanine, couleur qui me protège, qui me vient du ciel, couleur divine. You can't separate my skin from my land. And if you white, you descended from the European. I'm not a brand, understand, I'm a human being. The psychological damage we got to overcome. After Willie Lynch, it's a cinch, they don't need a gun. Black in the back, brown stick around, light in the right. The blacker the berry, the sweeter the juice, the bigger the tree, the deeper the roots. They try to make us hate each other, but in spite of that, and try to write us out of history and hide the facts. On top of that, they try to make us feel inferior. Yo, that's my brother looking at me in the mirror. I say that again, that I'm not a racist. I don't believe in any form of segregation. I'm for the brotherhood of everybody, but I don't believe in enforcing brotherhood upon people who don't want it. As long as we practice brotherhood among ourselves, and then others who want to practice brotherhood with us, we practice it with them also. We're for that. But I don't think that we should run around trying to love somebody. Roots di Didier Wadi, le ultime parole che avete sentito erano quelle di Malcolm X. E allora, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa, e parliamo un po' di quello che è successo in questi giorni, la strage di migranti a Lampedusa. E si sono dette molte cose, si sono scritte tante cose. Una cosa invece interessante è quella che abbiamo trovato su un sito di Migre Europe, che è un'associazione che raccoglie, un insieme di associazioni, sono 44, che raccoglie appunto ricercatori, intellettuali e associazioni che si battono contro la segregazione dei migranti e contro tutte le politiche di respingimento. Allora c'è stato un appello che è stato sottoscritto da moltissimi appunto di moltissime associazioni, anche da intellettuali e studiosi e singoli cittadini che vengono dal Maghreb e dall'Europa, che dice alcune cose interessanti al di là appunto delle lacrime di circostanza. L'ultimo naufragio nel quale sono morti o dispersi a poche miglia dall'isola di Lampedusa almeno 300 dei 500 passeggeri di un'imbarcazione proveniente dalla Libia non è il frutto di una fatalità. Nel 2010, nello stesso luogo, due naufragi avevano provocato la morte di 400 persone. Nel 2009 200 persone sono annegate al largo della Sicilia. Nei primi sei mesi del 2011 l'associazione, l'UNHCR, che si occupa, l'organismo dell'ONU che si occupa dei rifugiati, stimava 1500 il numero dei boat people che hanno trovato la morte cercando di raggiungere le coste maltesi o italiane. Dalla metà degli anni 90 la guerra dell'Europa contro i migranti ha ucciso almeno 20.000 persone nel Mediterraneo. Guerra. Come altro chiamare il dispiegamento di strumenti di controllo delle frontiere finalizzati in nome della lotta contro l'immigrazione irregolare a respingere coloro che miseria e persecuzioni cacciano dai loro paesi? Questi strumenti si chiamano Frontex, l'agenzia europea delle frontiere che dal 2005 pattuglia con le sue imbarcazioni, elicotteri, radar, videocamere termiche e presto anche droni dallo stretto di Gibilterra alle isole greche per proteggere l'Europa dagli indesiderabili. O ancora Eurosur, un sistema integrato di sorveglianza che dal 2011 ricorre a tecnologie d'avanguardia per militarizzare le frontiere esterne dell'Unione Europea e limitare il numero di immigrati irregolari che riescono ad attraversarle. Come altro chiamare la collaborazione imposta dall'Europa ai paesi di transito dei migranti, Libia, Algeria, Tunisia, Marocco, affinché svolgano il ruolo di sorveglianti e li dissuadano dal prendere la rotta del nord a colpi di retate, arresti, maltrattamenti e sequestri. Più spettacolare del solito per il numero delle vittime, quest'ultimo naufragio ha suscitato lacrime di coccodrillo, versate come un rito anche dagli stessi responsabili di queste morti. Al lutto nazionale proclamato dall'Italia, paese i cui governanti di destra come di sinistra non hanno mai rinunciato a concludere accordi con i paesi vicini, anche quando si trattava delle dittature di Gheddafi e di Ben Ali, per potervi rinviare i profughi, fanno eco le dichiarazioni della commissaria europea agli affari interni che invita ad accelerare la messa in opera di Eurosur per, secondo lei, sorvegliare più efficacemente le imbarcazioni dei rifugiati. Dove si fermerà questa ipocrisia? Pochi altri spazi marittimi sono dotati di una rete di monitoraggio e sorveglianza stretta come quella operante nel Mediterraneo. Se il salvataggio fosse davvero la priorità, come sancito dal diritto del mare, piangeremmo altrettanti naufragi fra la Libia e Lampedusa? Si designano quali principali responsabili gli scafisti, le mafie, i trafficanti di esseri umani, come se gli affari sinistri di coloro che traggono profitto dal bisogno impellente di alcuni di attraversare a ogni costo le frontiere non fossero resi possibili e alimentati dalle politiche che organizzano la chiusura ermetica di queste frontiere. È necessario ricordare che se dei siriani in fuga cercano, rischiando la morte, di attraversare il Mediterraneo e perché i paesi membri della UE rifiutano di rilasciargli i visti che gli permetterebbero di venire legalmente a chiedere asilo in Europa. Si parla dei pescatori che, vista l'imbarcazione alla deriva, avrebbero continuato la loro rotta senza prestare soccorso ai passeggeri e si esige che siano perseguiti e puniti per omissione di soccorso. Abbiamo forse dimenticato che nel 2007 sette pescatori tunisini accusati di favoreggiamento all'immigrazione irregolare sono stati perseguiti dalla giustizia italiana, messi in prigione, le loro barche sequestrate proprio perché avevano soccorso dei migranti la cui imbarcazione stava naufragando, li avevano presi a bordo e condotti a Lampedusa. Au revoir, famille terre, oh amis effner, oh famille terre, oh, je reviendrai les pas splendor. No, il dramma di Lampedusa non è il frutto di una fatalità, non è dovuto né ad avidi trafficanti né a pescatori indifferenti. I morti di Lampedusa, come quelli di ieri e di domani, sono le vittime di un'Europa chiusa in una logica securitaria, fino ad esserne accecata, un'Europa che ha rinunciato ai valori che pretende di difendere, un'Europa assassina. Yenen say xel xoltu ki yonu dem ñu joye joy ci wuri nongo ñaana ñaana ñaan ci ay bis met ci gele won na len fa E questo è l'appello firmato dal presidente del Forum Tunisino per i diritti economici e sociali, da varie associazioni che si legano insieme in questo gruppo di studio, di riflessione e anche naturalmente di opposizione alle politiche securitarie, il gruppo che si chiama Migre Europe e che appunto forse è quello che in maniera più lucida ha definito quello che la realtà, un'Europa assassina, prigioniera delle logiche securitarie. E allora 17:53 all'ascolto di Radio Africa dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50 il contatto telefonico. Loro vengono da Dakar, da Hop. Détruisez pour la cause et nous voudrions reconnaissance et respect que les pègres touchent des millions. Enchaîné comme un chien charru, tiré par la charrue. Un crash pour le changement et on maîtrise les chapeaux. L'arche menacée, l'Algérie se fonde à la torchée. On fauche les grincheux, les chercheurs se fraient un chemin. Originalité sous terre, on sent que l'on puise et qui dit qu'on utilise. East, le drapeau des MCs. Grise, MCs avec des lyrics qui brisent. Moi, toi, moi, pote regroupé pour de vrai. Si t'es prêt, tu y as accès. Ma samba, madame, bon, nyongi langa tamba. Hip-hop, illimité, nyongi miné. Rock-tac, rock de gay, mune nyune. Sungen fidèle ou c'est, bolle l'entikune. Fait que tu sound, t'es putain, tu beer pound. Dakar, hip-hop, represent tic-tac. Benen, rock-tac. Velen tok tok, kenen flip flop, nyenen tik tok, tik tok tok, tik tok tok, tik tok tok, tik tok tok, tik Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo sama bad nyo melitumba yambo meti won ekomo kusumba tombo ba tombo ba tombo sinyi tombo fai kai kheren mel ni mutombo khare budde grek lal mel ni zambo masamba anama demba gadul umbi nyu banya tamba tam tamane tax ñep di simba and def koy fas ci ñu lu demba demba denga E loro, sempre da Dakar, sono i GOKB System. Wicked, no murder, so as for homeless. All time, y'all go pride, mais y'all blessed. Je prends pour la cause prolétaire et pour tous les homeless qui crèchent sur terre. Ce que maman me disait, ce que papa me disait. Aide ton prochain fils dans ta poche pour les siens. Ce putain de monde va mal. J'accuse le peuple, il est temps qu'on y mette un bémol. Je viens lâcher mon verbe pour ceux qui n'ont rien. Pour ceux qui crèchent sous un pont sans cesse. Comme l'été, ils peinent sans cesse. J'ai rien d'autre à part cette chanson. Et de l'espoir dans la voix. De là-haut, Dieu nous guide dans la vie. Lève-toi, bats-toi et ne baisse pas les bras. Je braille, je sais que c'est peine perdue. La vie, je connais. Étoile divine du ciel, démon de l'âme. I am. Laisse couler lumière, espoir au fond de leur âme. Et flash, la lumière divine. Pour qu'on stand up, hell, hey, hey, hey. Pour qu'on stand up, hell, hey, hey, hey. Finish no wall, sing it sideways. Finish no wall, sing it sideways. Can't stand up, hell, can't stand up, hell. E allora Radio Africa sta per finire, sono quasi le 18, ma rimanete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, perché continua il nostro palinsesto del sabato pomeriggio con il jazz di Soul Peanuts fino alle 19.30. Money. À tous les gars abattus, sous un pont ou ailleurs. À ceux qui gardent en eux, espoir et douleur. Live your life, don't know what a techie. C'est ça. Tous les réfugiés en quête de la paix. Tous ces innocents qui s'exaltent et continuent. Who can stand up, hell, hey, oh, hey. Who can stand up, hell, hey, oh, hey. Say you finish no wall, le signe ici de l'aise. Who can stand up, hell, hey, oh, hey. Who can stand up, hell, hey, oh, hey. Radio Onda Rossa in diretta, come avevamo preannunciato, dal corteo di Torino contro il razzismo. Pronto, mi senti? Guarda, ti sento malissimo in realtà. Eh sì, sento un bel po' di sound, se magari ti sposti e riusciamo... Sì, sto già provando ad allontanarmi un attimo. Sì, sì, perché c'è un po' di... Ok. Allora, senti, come sta andando la manifestazione, come è partita, insomma raccontaci un po' anche gli eventi che l'hanno preceduta. Ecco, adesso allora, non c'è più il sound, forse riesci anche a parlare, vai. Allora, guarda, appunto vi dico, sento malissimo, quindi se poi non ho risposto a qualcuna delle cose che mi hai chiesto, mi richiedimi pure tranquillamente. Noi in questo momento ci stiamo ancora muovendo in direzione del comizio dei leghisti, l'intenzione è sicuramente quella di andargli a rovinare questo teatrino che hanno inscenato per oggi. Numerose sono state le cariche, la Celere non vuole assolutamente che ci sia l'avvicinamento, che ci sia contatto tra le due manifestazioni, e il corteo di oggi, ricordo, era completamente non autorizzato, per cui è stato un corteo che è stato in grado di conquistarsi il percorso, insomma, metro dopo metro, e questo chiaramente non è stato facile, ovviamente, ma comunque è stato segno di determinazione. E adesso tuttora in corso, e migliaia sono le persone che hanno preso parte. Appunto, l'intenzione e l'interesse è stato quello di andare ancora verso la piazza dove sono i leghisti. Senti, si era detto appunto che Torino non è stata scelta casualmente dalla Lega, considerando appunto che è una città che è in crisi, in cassa integrazione, insomma la Lega agita anche la lotta fra i poveri, la guerra fra i poveri. Sicuramente questa è la loro intenzione, pensavano di trovare qui probabilmente un terreno più fertile che in altre città, appunto per scatenare lo spauracchio dell'immigrazione in chiave securitaria, che è quello che insomma è sempre un po' il loro ritornello. E noi siamo qui a ribadire oggi che appunto né il 12 ottobre né gli altri giorni c'è spazio per i razzisti. Questa manifestazione è stata organizzata da un'assemblea pubblica, da un percorso che nell'ultimo mese appunto si è ritrovato per costruire questo momento. Siamo contenti insomma di come sia andata, di qual è la risposta appunto della Torino antirazzista, e raccogliamo anche, ti posso dire, il messaggio degli abitanti di Lampedusa, che questa settimana hanno contestato il premier Letta e gli altri politici che sono andati in visita a Lampedusa, quindi hanno mostrato di non voler rimanere inermi di fronte all'ennesimo teatrino dei politici di turno, e questo per noi è un messaggio forte, un messaggio da riportare nei nostri territori, di andare appunto a contestare i responsabili della crisi, dell'austerity, e soprattutto i responsabili di queste morti di Lampedusa. Bene, d'accordo, ti ringrazio, poi eventualmente ci risentiamo se ci sono sviluppi. Assolutamente sì, sentiamoci. Ok, ciao. Grazie a voi. C'est ça, papa, vous racontez une très belle histoire, non? Eh, c'est sympa, on dit quoi? Pompompaya, comment nommes-tu celui-là? C'est un tricheur. Pompompaya, comment nommes-tu celui-là? Boys Ben. Pompompaya, comment nommes-tu celui-là? Radio Onda Rossa 18.05, abbiamo ascoltato una corrispondenza da Torino, dove appunto è in corso una manifestazione contro la mobilitazione della Lega. E allora 18.05, va ancora avanti il nostro palinsesto, ci saranno probabilmente anche altri collegamenti con appunto altri momenti di lotta e di occupazione qua in città. Ses chaussures bien cirées, moi j'en ai rien à cirer. De New York, ouais, elle basse, impressionné, gay, n'est que Tio. Bou patron, mi wache, autobile, af, de Tahoa, Luji, Zimbed, de bi, n'est que Tio. Pompaya, comment nommes-tu celui-là? C'est un bandit. Pompaya, comment?